si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento settimanale. Si può fare, le piccole grandi notizie dell'altra attualità settimanale. Insomma, cerchiamo, raccontiamo storie che ci insegnano che si può fare. Cerchiamo di invertire un po' il trend depressivo della settimana. La prima notizia di oggi viene dalla Puglia. C'è una legge per abbattere gli ecomostri. Sì, alla legge contro gli ecomostri e ai comuni fondi per demolire. Una legge approvata all'unanimità dal Consiglio regionale pugliese. Il problema è che spesso i comuni individuano gli ecomostri da abbattere, però non ci sono i fondi per realizzare questi abbattimenti, queste vere e proprie demolizioni. Ebbene, adesso in Puglia c'è una legge che trova i fondi per fare queste demolizioni. Ecomostri e dintorni, insomma, ne parleremo, perché a proposito di edifici abbandonati pronti al riuso, a Milano ci sono delle novità interessanti. E sempre a Milano, mobilità sostenibile, bike sharing anche di notte, il via già nel prossimo weekend per tutto il mese di giugno e luglio. L'orario del Bike Me, che sarebbe la possibilità di prendere biciclette, come sapete, pubbliche a noleggio, si allungherà fino alle 2 di notte. Nei weekend sarà 24 ore su 24. Era questa una delle richieste degli utilizzatori delle biciclette pubbliche, cioè di poterle utilizzare anche di notte. Un progetto nato sotto la giunta Moratti, anche questo bipartisan, perché spinto oggi quando la giunta è cambiata ed è la giunta Pisapia. Un'altra notizia tra ambiente e incentivi ai consumi viene da Bologna. Sentite qua, macchine tritavetro nelle strade della Movida a Bologna. Mangiano le bottiglie di birra e di altre bevande, restituiscono uno scontrino che è valido per avere degli sconti nei bar e nei locali convenzionati. Si è partiti dalla zona di Piazza Verdi, la zona universitaria della città di Bologna, e adesso il comune e l'azienda per i rifiuti, l'Aera, porteranno in altre strade della città, dalla stazione centrale ad altre zone della Movida, questo interessante marchingegno. L'ultima notizia, segnalazione di oggi, è una segnalazione di solidarietà e riguarda i terremotati dell'Emilia Romagna. Santiago non molla è un hashtag su Twitter nato nel comune di Sant'Agostino, in provincia di Ferrara. Alle 4:05 di domenica 20 maggio, la prima delle due fortissime scosse che hanno colpito l'Emilia Romagna, all'inizio è servito per scambiare informazioni, poi ne è nata una vera e propria raccolta fondi per il comune, autorizzata dal comune di Sant'Agostino. Santiago è come i giovani chiamano il loro paese, Sant'Agostino. Potete fare delle donazioni a questa iniziativa sul sito di Shiny Note, il social network su basi etiche di cui spesso parliamo anche qua dai microfoni di Si può fare, oppure potete insomma twittare con questo hashtag Santiago non molla per dare un aiuto, una mano, un sostegno ai ragazzi che si stanno impegnando per il loro paese colpito dal terremoto. Noi aspettiamo le vostre segnalazioni durante la settimana al profilo Si può fare trattino Radio 24, il profilo del programma, poi anche, e non dimenticate, la nostra segreteria telefonica 828 1212. Questo è il suggerimento che ci manda un ascoltatore che coinvolge anche la nostra radio. La cosa che volevo proporre a questa radio meravigliosa, la Radio 24, è credo in assoluto la migliore, perché non adottare un sistema di collocamento per il lavoro, mi spiego meglio, un programma che dica quanti posti di lavoro liberi ci sono, chi cerca cosa, una cosa vecchia come il mondo, ma farla su Radio 24 potrebbe arrivare soprattutto ai giovani e magari far realizzare questo sogno incredibile di trovare un posto di lavoro, chi offre lavoro e chi lo cerca. Sicuramente sarebbe sommerso di domande, ma almeno qualcosa di utile qualcuno fa. E Radio 24 è la radio perfetta per questo. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Nel giro di due ore Bruci la città e crolli il grattacielo, dice Irene Grandi. È quello che qualche volta ci viene da pensare quando passiamo a fianco a questi enormi edifici abbandonati che sono nelle nostre città. E insomma, non servono più a niente, invecchiano, vuoti, decadenti e rubano spazio ad altri possibili spazi. E insomma, uno si dice, ma non sarebbe possibile buttarlo giù oppure riutilizzarlo? Ed è quello di cui si occupa l'associazione milanese Tempo Riuso, nata da docenti e studenti del Politecnico di Milano, che da qualche tempo studia proprio il fenomeno del riuso degli edifici abbandonati e da qualche settimana ha firmato un protocollo con il Comune di Milano. Nei prossimi giorni ci sarà un'iniziativa, forse ci vorrà tempo magari, ma insomma ne vedremo delle belle. E noi abbiamo convocato Isabella Inti, docente del Politecnico di Milano, nonché coordinatrice della ricerca Tempo Riuso. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Come nasce prima di tutto questa idea, questa associazione che va avanti, il lavoro già da qualche tempo, Tempo Riuso? Sì, la nostra associazione si chiama Tempo Riuso Net e nasce proprio per proporre un progetto di ricercazione che abbiamo avviato nel 2008. L'idea è quella appunto di utilizzare il patrimonio edilizio esistente, come si diceva, gli spazi aperti vuoti in abbandono ma anche sottoutilizzati, sia di proprietà pubblica e privata, per riattivarli con dei progetti legati al mondo della cultura, dell'associazionismo, dell'artigianato e anche della piccola impresa, ma anche progetti per l'accoglienza temporanea di studenti, ce n'è un forte bisogno, e del turismo giovanile. E l'idea è appunto quello di farlo con nuove regole, cioè dei contratti ad uso temporaneo a canone o gratuito o calmierato, come avviene in molte città europee, come a Berlino, ad Amsterdam o anche a Bruxelles, con cui appunto siamo in rete. Quindi un'esperienza che in qualche modo arriva in Italia dopo essere già nata, vissuta e cresciuta anche altrove in Europa, e non è la prima volta che accade, insomma, che arriviamo un passettino dopo, ma l'importante è arrivare. Voi che cosa è che fate anche concretamente? Verificate, andate in giro, avete delle tecnologie particolari, oppure so che vi muovete adesso anche in bicicletta coinvolgendo comitati di quartiere e cittadini? Come operate per verificare, insomma, che ci sono questi edifici in stato d'abbandono? Certo, ma vecchie e nuove tecnologie, assolutamente, siamo anche degli artigiani di internet e appunto ricercatori sul territorio. Diciamo che i primi due anni ci siamo concentrati ad attivare più un movimento legato di idee, legato alle pratiche di riuso temporaneo, per cui abbiamo scritto un manifesto per il riuso temporaneo a cui hanno aderito tante associazioni, cittadini, artigiani, artisti, non solo a Milano ma in tutto Italia. E una di queste prime realtà che ha aderito è proprio stata la pubblica amministrazione di Sesto San Giovanni, che ci ha permesso, con all'epoca sindaco Oldrini e l'attuale sindaco Monica Chittò, che era assessore alle politiche giovanili e alla cultura, di attivare già due primi progetti pilota, uno in un'ex portineria Breda, sull'area di Breda appunto di Sesto San Giovanni, è un progetto che è ancora in attivo e vi consigliamo vivamente di visitare, che è Made in Mage, ossia gli ex magazzini Generali Falck, circa 1500 metri quadri, che invece che essere destinati forse in un futuro a museo, sono stati riaperti per tre anni per creare appunto dei laboratori artigiani dove appunto sono insediati 15 realtà. E invece più recentemente, dopo l'elezione appunto di Giuliano Pisapia, abbiamo ricontattato invece i nostri assessori milanesi proponendo appunto di attivare anche a Milano finalmente alcuni progetti di riuso temporaneo. Ecco qua, allora vediamo, perché la settimana prossima so che dal 14 al 17 giugno c'è un'iniziativa. Isabella Inti, resti con noi, progetto Tempo Riuso. Facciamo una pausa per il traffico e poi ci racconterà cosa succederà a Milano. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci di nuovo insieme in diretta in compagnia di Isabella Inti del progetto Tempo Riuso. Che cosa accadrà dal 14 al 17 giugno a Milano? Che cosa sta accadendo? Allora, dal 14 al 17 saremo allo Spazio Ansaldo, che probabilmente, come dire, in quei giorni diventerà OCA, ossia Officine Creative Ansaldo. Siamo presenti per parlare con chi vuole conoscere più da vicino che cosa sono le pratiche e le politiche di riuso temporaneo in tutta Europa, ma anche cosa stiamo iniziando a fare a Milano. Noi abbiamo iniziato il 30 marzo scorso a firmare un protocollo d'intesa con 5 assessorati del Comune di Milano per appunto iniziare zona per zona a riverificare una mappatura di spazi in abbandono per poter lanciare, speriamo in autunno, dei primi progetti di riuso temporaneo a Milano. Per cui il 14 apriamo appunto il nostro spazio all'Ansaldo temporaneo, per l'appunto, dove incontreremo cittadini provenienti dalla zona 3, zona 4, zona 6, 8 e 9, che sono le zone che abbiamo già visitato, e in quei giorni, oltre a partecipare a un tavolo che sta costruendo appunto l'assessorato alla cultura e non solo, legato agli spazi al riuso, dove saranno presenti, se non sbaglio, l'assessore Benelli, Castellano, Visconti. Vabbè, gli assessori sono sempre annunciati, poi non ci sono mai, ma questo non importa. Vedremo. Sì. Comunque saranno presenti, speriamo, tanti cittadini. Sì. Noi porteremo, anche grazie a un'associazione che si chiama Orde Commerce, anche una navicella spaziale, un metro 70, 1 metro per 50, dove poter fare le votazioni spaziali che, cioè, poi verranno inviate nello spazio. No, invece esatto, no verranno inviate agli assessori in città, ossia che è un po' la stessa cosa. Zone. No, noi ci fidiamo, stiamo di scherzando, aggiunta. Sì, va bene. Voteremo 5 zone per riaprire, sì, 5 spazi. Grazie. Allora, Isabella Inti, insomma, cittadini milanesi, avete sentito, partecipate numerosi dal 14 al 17 giugno all'Ex Ansaldo, c'è questa iniziativa Tempo Riuso, insomma, a Milano, ne vedremo delle belle. Seriamente a una canzone per l'estate, maledettamente stupida da farsi canticchiare, orecchiabile dal sapore di asciugamano col calor latino con un ritmo sudamericano. Sto pensando a quanti soldi potrei farci veramente, diventasse la canzone dell'estate per la gente. Discoteche di Riccione dentro ai ristoranti, dalle radio nazionali e nei villaggi di vacanze. L'ombrellone che lo picco nel culo e il gelato te lo spiaccico in faccia. Questa sabbia te la tiro negli occhi e poi ti prendo a calci lungo la spiaggia. Con la sdraio ti ci spezzo la schiena e ci piscio sulla tua bronzatura. Ora ingurgita la crema solare prima che ti affoghi in questo schifo di mare. Simone Cristicchi, una visione, insomma, un po' la rovescia della tipica giornata al mare, no? E di come pensiamo le nostre spiagge. Un'idea diversa ce l'hanno avuta anche a Cesenatico, dove è nata la prima spiaggia, dove al posto degli ombrelloni ci sono delle meravigliose piante di tamerici. Meravigliose, io non le ho viste, le ho viste soltanto in fotografia. Ma non è questa l'unica novità, ci sono materiali di riuso, tutto un concetto di basso impatto energetico. Insomma, come vogliamo chiamarle? Spiagge vegetali, spiagge naturali, lo chiediamo a Roberto Sani. Buongiorno. Romano Sani, che è coordinatore, curatore, responsabile, ideatore del progetto Cooperativa Esercenti Stabilimenti Balneari di Cesenatico. Ho detto troppe cose? No, ha detto corretto, tutto giusto, a parte il nome. Anche il mio nome è corretto. Senta, dove si trova esattamente la vostra spiaggia, tanto per iniziare? Allora, la spiaggia è esattamente, si trova in località Valverde di Cesenatico. Che già il nome promette bene, insomma. Sì, esattamente, ed è una delle 5 spiagge libere che si trovano appunto nella località. Questo è importante dirlo, una spiaggia è libera dove si accede, sì, senza pagare, diciamo, sì, si paga, insomma, l'utilizzo forse di queste strutture qualcosa si pagherà. No, assolutamente. La spiaggia è e continuerà a rimanere libera, per cui anche tutti i servizi che si trovano all'interno della spiaggia, dell'arenile, continueranno a rimanere gratuiti, per cui il cliente e i clienti potranno, sì, usufruire delle ombre gratuitamente, dell'acqua, delle docce calde gratuitamente. Le cabine spogliatoio e tutti gli altri servizi sono assolutamente gratuiti. Nonostante, insomma, gli investimenti che avete fatto, ci racconti, certo, che cosa vede di diverso una persona, un bagnante che arriva alla vostra spiaggia? di diverso rispetto a quello che invece si vede normalmente nelle spiagge, dove ci sono gli ombrelloni colorati, eccetera. Beh, sicuramente l'impatto è visivo, è a parte dal punto di vista estetico molto più accattivante, molto più carino. Comunque è sicuramente una spiaggia a bassissimo impatto ambientale, soprattutto grazie all'impiego di questi tamerici, di questi alberi di tamerici al posto dei classici ombreloni, e all'impiego di materiali ecosostenibili poveri e a chilometro zero che compongono le strutture e i servizi che sono presenti in spiaggia. E sicuramente rispetto a prima, dove esisteva solamente della sabbia, diciamo che l'area è stata completamente riqualificata, migliorata, è stata migliorata sicuramente la fruibilità dell'arenile da parte del turista. Ecco, ma anche da un punto di vista dei costi, questa sistemazione è stata più o meno cara di realizzare una spiaggia tradizionale con i materiali tradizionali? Sì, indubbiamente sì, perché comunque sono stati impiegati tutti i materiali, anche se poveri, chiamiamoli, ma poveri solamente dal punto di vista, diciamo, non dal punto di vista economico di costo, perché comunque sono alberi che hanno comunque un loro costo, e anche il materiale che comunque costa, l'investimento è stato notevole. E in parte finanziato da fondi della comunità europea, tant'è vero che il progetto Le spiagge delle Tamerici fa parte di un progetto europeo, e però per la maggior parte diciamo finanziato dalla cooperativa Bagnini di Cesenatico, per cui comunque l'investimento è sicuramente notevole. Insomma, allora, tutti a Valverde, a Cesenatico, appuntamento in questa spiaggia molto particolare. Avete già fatto l'inaugurazione, c'è stato, spero, un buon gradimento da parte del pubblico. Insomma, vi verremo a trovare, che altro dire? Bene, noi vi aspettiamo, aspettiamo anzi tutte le famiglie, tutti i turisti, perché credo che rimarranno sicuramente colpiti dalla nuova veste della spiaggia, per cui venite a Cesenatico, perché primo perché si sta bene, e poi secondo perché abbiamo una spiaggia, un esempio di spiaggia come era da noi 50-60 anni fa. Ecco, credo sia il primo esempio di spiaggia rinaturalizzata in tutta Italia, quindi la spiaggia come era al tempo dei nostri nonni. E speriamo tra l'altro che, insomma, gli allarmi ingiustificati che ci sono stati all'inizio anche per le scosse di terremoto, qualche prenotazione in meno, non danneggino anche la stagione. Avete notizie da questo punto di vista, o comunque sperate in una stagione normale come tutte le altre? Ma noi auspichiamo sì che la stagione sia una stagione normale, innanzitutto primo dal punto di vista meteorologico, perché comunque il tempo è il nostro primo alleato, diciamo, alleato, ecco. E soprattutto dipende, sì. Insomma, però ecco, dal punto di vista per quanto riguarda il discorso del terremoto, sicuramente qualcosa ha inciso forse inizialmente su qualche prenotazione, però ci sentiamo di dire che comunque la situazione qui da noi è assolutamente normale, tranquilla, per cui speriamo, ecco, che la stagione vada bene. In bocca al lupo Romano. Grazie. Sani e Valverde, la spiaggia vegetale di Cesenatico. Noi facciamo una pausa, ci risentiamo, ci ritroviamo tra pochissimo dopo gli aggiornamenti del giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, si può fare, cronache da un paese migliore, ben ritrovati in diretta su Radio 24. Non dimenticate durante la settimana di lasciarci le vostre segnalazioni, le vostre notizie sul profilo Facebook del programma Si può fare - Radio 24. Poi anche alla mail Si può fare @radio24.it, alla nostra segreteria telefonica 828 12 12. Avete sentito il progetto della spiaggia vegetale? Il progetto è già una realtà, in realtà, a Valverde, a Cesenatico, e noi continuiamo a parlare di voglia di verde con i consigli settimanali della decrescita felice. Voglia di orto e mancanza di spazio non è più un problema, si può fare. Orti sul balcone. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica, eppure per vivere bene non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. Mucche da latte? Non hai abbastanza spazio. L'apicoltura, allora? Ma non so come la prenderebbero i vicini. I maiali? Poco pratico, a meno che tu non sia George Clooney. E poi non è detto che tua moglie ne voglia un altro, oltre te. Potresti allevare i pesci nella vasca da bagno. Basta smettere di lavarsi. Oppure l'orto. Ecco, quello sì che puoi averlo anche se vivi in un appartamento. Ti basta avere un balcone. Ce lo racconta Carla da Napoli. La prima cosa da fare è scegliere un balcone orientato o a sud-est o a sud-ovest. Una volta scelto l'orientamento bisogna allestire il balcone. Il balcone può essere molto piccolo oppure più grande. Quindi se fosse molto piccolo si può optare per una coltivazione in vaso. Se fosse un po' più grande si può optare per una coltivazione in cassone che è più produttiva. Sia nel caso dei vasi sia nel caso dei cassoni bisogna contestualmente procedere al compostaggio domestico, perché il compost è la nostra materia prima organica che ci serve per la concimazione del terreno. Quindi riempiremo i nostri cassoni o i nostri vasi prima con legnetti e foglie secche e poi procederemo con i residui di cucina organici. Eviteremo accuratamente i residui di cucina cotti, quelli conditi con olio, e i residui di carne, pesce, tutto quello che è materiale animale. Finiremo con uno strato di compost maturo e poi con 10 cm di terra, di terriccio. Su questo ultimo strato andremo a impiantare i nostri ortaggi, che potremo sia seminare sia trapiantare piantine acquistate. Una volta che avremo trapiantato quindi le nostre piante o seminato le nostre piante, saremo attenti nel curarli di volta in volta, quindi se avremo trapiantato pomodori saremo attenti a procedere alla sfemminellatura, cioè ad eliminare i rametti in più che sono fra un ramo e un altro. Se invece si tratta di melanzane saremo attenti a eliminare le foglie più appassite, così da rendere più vigorose le piantine. Potremo anche seminare zucche, cetrioli, cicoria, insalate, peperoni, pomodori di tutti i tipi, insomma tutto quello che ci può servire in cucina. Avete ascoltato Gli orti sul balcone. È la decrescita felice e si può fare. To me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it, baby. For a few years, shed a few tears, called each other nicknames like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home. Always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated. Patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated. I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it. Hey, now. Yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle. Can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never a above you. I could tell that you different from most, slightly approach you, and the ill shit about it, we don't sex every day, but when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, a little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day, it's on you, baby, ma. If you give it to me. Insomma, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, fuori dal, insomma, dallo spirito un po' ammiccante della canzone. È la logica del baratto, lo scambio gratuito di utilità che va sempre più di moda, oggetti, abbigliamento, ma anche adesso per esempio hobby oppure servizi, insomma, di manifestazioni di questo tipo ce ne sono tantissime, per segnalarne solo due. Domenica scorsa a Bari tutta la città coinvolta in una giornata di riutilizzo, questo fine settimana invece a Mantova. E allora noi a questo e a un'altra iniziativa di cui fra poco vi parleremo vogliamo dedicare il nostro avviso ai naviganti, le nostre previsioni economiche della settimana. Allora andiamo con la nostra sigletta. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi provocati da una zona di alta pressione fiscale verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno, speriamo. E l'ultima originale iniziativa in tema di baratto viene da Concorezzo, cittadina di circa 15.000 abitanti in provincia di Monza e Brianza, dove si sta sperimentando proprio in questi giorni e per alcuni giorni un sistema di baratto che coinvolge i commercianti che, insomma, danno i loro prodotti e servizi, in sostanza, in cambio con prodotti che sono proposti dai consumatori, dall'edicola al parrucchiere, dal negozio di abbigliamento, insomma, un po' tutto. Abbiamo convocato uno degli animatori di questa originale e simpatica iniziativa anticrisi, vogliamo titolarla così, Antonio Mandelli, titolare di un negozio di fotografia. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, è stato lei, credo, almeno così hanno scritto i giornali, ad avere l'idea? Sì, diciamo che vabbè, l'unione fa la forza. Quindi io... Ma lei è già forte da solo, quindi... No, siamo un gruppo, diciamo sì. Che l'idea è venuta così, partendo dai nonni, dice, ma perché non ci mettiamo... A ognuno dà quello che può e troviamo qualcuno che ci dà qualcos'altro, e quindi tutti hanno detto è una bella idea e siamo partiti. Insomma, l'idea nasce un po' da questo periodo di crisi anche dei consumi, insomma, certo, negozi certo, che sono certo, un pochino più in difficoltà per arrivare un po' anche in negozi qua che insomma siamo tutti in sofferenza, quindi inventi qualsiasi cosa, quindi abbiamo pensato questa che comunque è una delle cose più riuscite qua nel nostro paese, diciamo, vedere in questi giorni. C'è movimento, avete fatto le locandine, so. Sì, diciamo che è tutta una roba artigianale, perché siamo partiti con budget zero. Sì. Abbiamo fatto le fotocopie, non siamo andati a chiamare il grafico, sì. Per dire, c'è la campagna pubblicitaria. Amici, ci siamo trovati la sera, abbiamo stampato, fotocopiato le locandine, le ho messe insieme col computer, così... tra amici, e alla fine sembra una bella idea. Quanti e quali sono i commercianti coinvolti? Io ho letto sui giornali l'edicola, negozio di abbigliamenti, ma c'è anche il calzolaio, sì. Lei fa il fotografo. Quanti sono? Io faccio il fotografo, c'è la parrucchiera, ci sì. sono i bar, c'è l'estetica, ci sono i bimbi di Patti che per dire sono un negozio di abbigliamento, la bomboniera, la boutique del dolce che fanno i pasticcini, quindi c'è il ciabattino che aggiusta le scarpe, il falegname che restaura i mobili, lui pretende, c'è un cassettone Luigi 800 da fare, se lo vuoi comprare così o se no te lo restauro. La palestra che offre i suoi prodotti, la pellicceria che ti tiene il montone o il quindi diciamo che ognuno ha messo quello che può. Ecco. E quindi la gente piace. Adesso diciamo che la pubblicità la stiamo, ognuno per in ogni negozio. Cioè, poi anche il passaparola piano piano in una cittadina così funziona. Passaparola. Ecco, ma sono proprio... attualmente sono più le persone che entrano nei negozi con l'idea di comprare normalmente, oppure dato che si sparsa la notizia entra un sacco di gente con oggetti strani in mano, se vuoi raccontare anche l'esempio di qualcuno. Non si fa subito, il baratto non viene fatto subito. Ah, quindi si propone. È troppo complicato. Ah, benissimo. Noi abbiamo dei voucher, abbiamo pensato, sì? dei voucher che uno entra e dice la sua, no? A me è venuta una ragazza che fa la fisioterapista e si sposa a gennaio e mi ha detto, guarda, io ti posso fare 32 massaggi. Accidenti, che offerta. Allora abbiamo un voucher, abbiamo scritto, ho detto va bene, adesso abbiamo 15 giorni di tempo, valuteremo l'offerta migliore. Ah, quindi scriviamo. Praticamente io entro nel suo negozio, lascio sì. una proposta che diventa un voucher scritto, sì. lei ne riceverà delle altre. Poi valuta e poi vi risentite e se va in porto, insomma, si fa questo. Ecco, però poi ci vuole la fiducia, no? Perché se questa ragazza massaggiatrice le promette 32 massaggi, che sono tanti certo. tra l'altro, e poi magari... Ha fatto delle cose, diciamo... Ma in cambio di cosa? È già una cosa che non va, cioè no, che è inusuale. Due, la sì. fiducia che al giorno d'oggi praticamente non c'è più. Oggi se non hai l'avvocato o un contratto non vale niente. Invece quindi noi... si fa una stretta di mano, come funziona? Brava, una firma sul fogliettino sul foglietto. Per dire così, ma senza valore. Una stretta di mano, se lo vuoi fare lo fai, se non lo sì. vuoi fare... Se mamis come prima, disunchia concurres, capito? Mi sono perso però su un passaggio, cioè i 32 massaggi in cambio di che cosa? Io ho messo, diciamo, sì. noi tutti i negozi qui abbiamo fatto due baratti, uno di fascia accessibile che può essere io ho messo delle foto, l'altro ha messo un vaso, l'altro ha messo una torta, uno ha messo un paio di jeans, quindi una fascia accessibile che tutti... È una fascia invece più alta. Ti do un bacio, sì. E uno dice va bene, io ti do la cosa. Ma lei batte sempre su questo, i massaggi, il bacio, non ho capito, ma non è che... No, c'è sotto la magagna, per dire, no? Una per dire, qui abbiamo scritto sì. Un'imbiancatura, una riparazione, una pulizia, la pulizia, un dolce, un piatto tipico. Senta Mandelli, dai, mi dica ancora una cosa, perché voi siete partiti, credo, dai primi di giugno. Sì, è partita il primo giugno. È andata avanti sino al 16 di giugno, così ho letto sui giornali, poi però mi sembra di capire non vi fermate qua. No, adesso noi, questa è la prima volta, non pensavamo sì. Neanche a un successo del genere. Praticamente dall'1 al 15, il 15 tiriamo le somme, decidiamo un amico, un cliente al quale dare il baratto, il 16 durante la notte bianca che c'è qua con Corezzo lo ufficializziamo, sì. Poi ci fermiamo e tiriamo le somme per vedere, perché insomma non vorremmo fare più confusione, magari possiamo andare anche in alcuni ambiti magari non legali, diciamo, insomma, sa com'è, no? No, però, non, sì. Però non tiratevi indietro, è un'iniziativa che sta avendo un grande successo, è molto originale, no. E certo, quindi insomma capito, è certo. Divertente, dai. Certo, no, è divertente veramente, e poi abbiamo... E poi è anche una risposta, insomma, ai bisogni della gente, perché bravo. Ridendo e scherzando si risparmia e si ottengono comunque un sacco di cose. Allora, cari cittadini lombardi, mettiamola così, con Corezzo c'è tempo fino al 15 giugno, poi ci sarà la notte bianca, insomma, e vedremo cosa succederà. Baratto con i commercianti coinvolti. Grazie Antonio Mandelli. Grazie a lei. Grazie, buona giornata e buoni baratti. Si faccia vedere che vediamo se di accontentarla. Va bene, grazie, vi verrò a trovare. Ci fermiamo qua, intanto facciamo una pausa per il traffico e poi l'ultima parte di Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sera 11 giugno presso il teatro Piccolo Teatro Streller di Milano, i ragazzi dell'Accademia Oliver Twist porteranno in scena lo spettacolo Pinocchio Meneghino, una serata che insomma sarà una serata di arte, danza, musica e anche solidarietà. Il progetto nasce dall'impegno della Fondazione Oliver Twist, fondata nel 2005 grazie al sostegno del gruppo Kairos di Leonardo Del Vecchio, la fondazione che si occupa di sviluppare progetti per aiutare i giovani in situazione di difficoltà. Abbiamo la direttrice generale della Fondazione Oliver Twist, Anna Venturino, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Insomma, so che siete nel cuore dei preparativi per questo spettacolo che vede i protagonisti i ragazzi, la Fondazione e l'Accademia di Teatro della Fondazione Oliver Twist, un progetto di solidarietà importante. Partiamo dalla coda, come nasce questo spettacolo teatrale? Ma noi abbiamo messo in piedi questa accademia come proposta per la città di Milano ormai da 2 anni. L'accademia si rivolge a ragazzi adolescenti delle medie e delle superiori e attraverso varie espressioni artistiche come appunto il teatro, la danza, il canto o comunque anche la musica cerchiamo di fare un cammino con i nostri ragazzi. Questo significa stare insieme a loro e lavorare anche sulla relazione, anche sull'autostima. Ogni anno alla fine dell'anno facciamo uno spettacolo. L'anno scorso eravamo al Teatro Litta e quest'anno siamo molto molto contenti e saremo appunto al Teatro Piccolo di Milano. Per noi è sicuramente una grande occasione, quindi lo spettacolo nasce per loro, nasce come momento diciamo celebrativo della fine di un anno, di un percorso che loro hanno fatto con noi durante l'anno e abbiamo avuto la fortuna di avere il regista Carlo Pasquini che ad hoc su di loro ha rielaborato appunto la storia di Pinocchio. Quindi faremo un Pinocchio al femminile. Sì. E dei personaggi veramente strepitosi. Invito tutti a vederlo perché sarà una bellissima serata. Ecco, insomma, per chi è curioso, ricordiamo domani sera al Piccolo Teatro di Milano. Che età hanno i ragazzi coinvolti? Allora, io direi la maggior parte dai 12 anni ai 16 anni, quindi adolescenti. delle medie e delle superiori, la maggior parte proviene da Milano, anche Interland, sono ragazzi accomunati dalla passione appunto per l'arte, la fondazione si occupa principalmente di ragazzi con situazioni di fatiche, di disagio, quindi situazioni affidatari o provenienti sì. da comunità, e per cui anche all'interno della comunità chiaramente la proposta è rivolta principalmente a loro. Ecco, quindi appunto come arrivano a voi della fondazione e poi anche allo spettacolo questi ragazzi, per capire tramite i servizi sociali, tramite... Sì, abbiamo fatto un lavoro che dura l'Accademia, la fondazione esiste da 7 anni, quindi prima di mettere in piedi l'Accademia chiaramente abbiamo lavorato molto sul territorio di Milano insieme in rete con tante realtà, e quindi insieme alle scuole, insieme a diverse realtà del privato sociale, possono essere centri diurni, comunità o realtà anche affidatarie, appunto facciamo un lavoro per capire se la nostra proposta è adatta ai ragazzi, nel senso che noi ragazzi li vediamo 2 o 3 volte a settimana, e quindi dove insieme agli educatori che ci inviano i ragazzi si reputa che la proposta dell'Accademia ha un significato per accompagnarli all'interno del loro percorso di crescita, allora si propone ai ragazzi di entrare a far parte dell'Accademia, insomma come una sì. grande compagnia. Senta, ma il teatro, insomma, sì. la recitazione, il fatto di stare sul palcoscenico per rimettere in gioco questi ragazzi, vi ripetiamo, tra i 12 e i 16 anni più o meno, il palcoscenico è ancora un luogo di rinascita, di redenzione, se vogliamo usare questa parola magari un po' difficile, anche oggi per questi ragazzi al tempo delle nuove tecnologie, dei social network, di internet, di tutte quelle cose che portano, normalmente portano in altri certo. sentieri. Guarda, è strepitoso. Devo dire, il teatro in generale è un'opportunità espressiva veramente ampia, nel senso che da un lato dà l'opportunità a questi ragazzi che, come dice lei, non sono più tanto abituati a parlare, a proporsi e a, come dire, anche usare la propria creatività e gestualità, a mettersi in gioco individualmente, tirando fuori anche le proprie e lavorando sulle proprie timidezze, ma anche in relazione con gli altri, improvvisando, imparando anche a parlare. Molte nostre ragazze all'inizio fanno proprio fatica a esprimersi, a come dire, a usare anche le vocali, a parlare, come tanti adolescenti che con lo slang e con gli sms alla fine parlano poco, purtroppo. Quindi in primis imparano a parlare, a esprimersi e anche a tornare a usare la propria creatività. Poi il palcoscenico è stupefacente, nel sì. senso che è un momento magico dove intanto hanno la possibilità, guardi, di essere guardati. Purtroppo tanti ragazzi non vengono visti da nessuno. Quindi per loro essere su un palco, avere davanti come al piccolo 1000 persone che vengono lì apposta per guardarli, è una cosa unica che si porteranno proprio dietro nel loro cuore. Insomma funziona ancora, anche se i tempi cambiano, il teatro continua ad essere un luogo dove esperienze di rinascita così come quella che ce l'hai raccontato possono funzionare. Allora grazie Anna Venturino, direttrice generale della Fondazione Oliver Twist, appuntamento domani sera al Piccolo Teatro di Milano, grazie per essere stata con noi. Grazie. Chiudiamo qua questa puntata anche con i ringraziamenti Franco Piantanini in redazione, Valeria Bernardi in regia per la diretta di oggi, Andrea Piana che ha scritto con me il programma. Chiudiamo con un collage di suggerimenti, di ricette di voi ascoltatori alla nostra segreteria telefonica. L'idea di mettere la benzina almeno a 4 euro ne guadagnerebbe molto l'ambiente oltre che le persone. Se si potesse limitare le assunzioni ai comuni in base ai loro residenti, che invece assumono gente senza averne bisogno, sarebbe un grande risparmio e anche una botta alla mafia. Un aspetto a mio avviso importante, un pozzo senza fondo dell'amministrazione pubblica, che è rappresentato dalla miriade di aziende municipalizzate che si occupano dei servizi più disparati, trasporti pubblici, depurazione delle acque, fornitura del metano, eccetera, eccetera. Questa infinità di aziende rappresenta sicuramente un bacino fondamentale per gli appetiti delle forze politiche, in quanto vengono nominati vari membri dei consigli di amministrazione. In più ciascuna di queste microaziende ha i propri uffici amministrativi, le proprie strutture e quindi con notevolissimi costi. Una soluzione potrebbe essere quantomeno raggruppare a livello provinciale le aziende che si occupano del medesimo campo d'applicazione, con sicuramente un beneficio per la maggiore dimensione delle aziende e una diminuzione dei vari organi direttivi e consigli di amministrazione. Ciao, sono Luca da Bologna e io propongo tutte le auto blu, Stato, regioni, comuni, tutte a metano, no? Così si risparmia un po' sulla benzina. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto.